Letture di Radio 24. Barack Obama e Hillary Clinton respingono gli scetticismi riguardo la tecnologia e internet come cane da guardia della libertà. Non perdono occasione per ribadirlo e il presidente degli Stati Uniti benedice il dissenso che si crea attraverso la rete ed esorta i ragazzi della rivolta egiziana a proseguire nella protesta. Dagli Stati Uniti, fondi per cyber dissidenti e hacker antiregime. Hillary Clinton alza al cielo la fiaccola della libertà digitale. Il segretario di Stato, a nome del presidente Obama, avverte che gli Stati Uniti andranno fino in fondo nel difenderne l'uso per far avanzare i diritti umani e la democrazia. Davanti a un gruppo di studenti, ma parlando al mondo, Hillary Clinton alza al cielo la fiaccola della libertà digitale. Respinge lo scetticismo di chi, come il saggista Eugeni Morozov, si dice deluso da Internet. Ammette che la tecnologia non è necessariamente un toccasana, ma avverte che gli Stati Uniti andranno fino in fondo nel difenderne l'uso in tutto il mondo per far avanzare i diritti umani e la causa della democrazia. Da oggi, dice il segretario di Stato, difendere l'Internet libera è parte integrante del lavoro della diplomazia statunitense. L'enfasi di Hillary è comprensibile. L'America, che ha dominato il XX secolo da leader del mondo libero, deve fronteggiare nel XXI secolo nuove potenze economiche che spesso sono anche regimi autoritari. Sostenere i movimenti democratici che utilizzano i nuovi canali digitali può essere un antidoto al rischio che i governi dei paesi emergenti, interessati soprattutto al benessere economico, scelgano come modello la Cina del mercato senza libertà, anziché l'Occidente liberale. E poi Internet alla faccia dell'America, culla delle tecnologie che stanno aprendo brecce nel muro delle dittature. E la libertà di Wikileaks? E il diritto delle democrazie di controllare che su Internet non vengano violati i diritti della persona? E l'uso perverso della rete da parte di dittature e gruppi estremisti? Rispetto al suo discorso di un anno fa, la Clinton corregge la rotta. Va rispettato, dice, il confine tra libertà di parola e diritto alla riservatezza. E bisogna essere consapevoli che la rete è come la vita. Può essere usata per il bene o per commettere crimini. WikiLeaks non ha esercitato una libertà, ma ha commesso un reato. È scappata con una valigia digitale di documenti rubati. Parole dure, quelle di Hillary. E anche coraggiose quando ammette che in passato ci sono state contraddizioni e incertezze del governo. Rimane il dubbio che dopo il Cairo ci si illuda che tutte le dittature si somiglino. Purtroppo non è così. Google ha sempre detto che l'Egitto, che non è certo una democrazia, è uno dei paesi nei quali aveva incontrato meno difficoltà a operare liberamente. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Se l'America di Hillary e Obama benedice il dissenso via internet» di Massimo Gaggi, dal Corriere della Sera di mercoledì 16 febbraio. Letture di Radio 24. Lo scrittore statunitense Scott Turow interviene nel dibattito sul diritto d'autore che sta infiammando l'America e il mondo occidentale. Turow mostra la sua contrarietà ai testi gratis sul web e lancia una vera e propria crociata per il copyright. Presunto innocente? Ma che? Colpevolissimo! Scott Turow, il re del legal thriller, incastra il nemico pubblico numero uno degli autori di tutto il mondo. Il web senza limiti, che favorisce la pirateria. E per farlo chiama a testimoniare niente di meno che uno dei suoi colleghi più grandi di tutti i tempi, William Shakespeare. Sarebbe riuscito il bardo a sopravvivere al web? Con questo titolo, il giallista si lancia sul New York Times nel dibattito che sta infiammando l'America e il mondo occidentale. La Casa Bianca, che dalla sicurezza alla privacy all'alta velocità ha fatto di Internet un caposaldo della sua politica, ha promesso entro l'anno una legge antipirateria. E proprio stamane al Senato si aprono le audizioni sul tema. L'obiettivo? Fermare quei siti che rubano la proprietà intellettuale in America. Perché di questo Turow parla senza mezzi termini. Furto. Mentre, riconosce il giallista nell'intervento scritto a sei mani con gli esperti Paul Aiken e James Shapiro, un pugno di professori di diritto diffonde quel pensiero seducente, e cioè che il copyright ostacola la creatività e il progresso. L'autore dell'onere della prova non lo cita, ma uno di questi è Marcus Boone, il professore che per i prestigiosi tipi dell'Harvard University ha pubblicato quell'elogio della copia che, sbandierando al suo interno tutti i diritti riservati, flirta invece con l'infrangimento del copyright. Da Harry Potter alle borse Louis Vuitton. Ma che cosa c'entra Amleto col web? Copiare o non copiare, Turow rintraccia l'origine del diritto d'autore in quei contenitori di terracotta rinvenuti l'estate scorsa negli scavi dell'East londinese. Le prime casse nella storia del teatro. Alla fine della giornata gli attori e i padroni del teatro rompevano le terracotte e dividevano gli incassi che servivano a pagare i drammaturghi per scrivere nuove opere. Per la prima volta era possibile guadagnare scrivendo per il pubblico. E il denaro cambiò tutto. Quasi all'improvviso, un'onda di brillanti drammaturghi emerse, compresi Christopher Marlowe e William Shakespeare. E perché la pirateria cambierebbe oggi tutto? Ricorda Turow che il mitico Globe di Shakespeare fu buttato giù nel mezzo della sanguinosa guerra civile a metà del XVII secolo. Ma il regime non era motivato dagli ideali di accesso libero o dall'illusione di accelerare il progresso, a cui si aggrappano gli anti-copyright di oggi. Il potere voleva semplicemente il silenzio dei drammaturghi, che instillavano strani pensieri nel pubblico pagante. Conclusione? La più grande esplosione di talenti teatrali del mondo moderno finì per sempre. Bellissimo colpo di scena, ma il processo al copyright non finisce certo qui. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Turow, la crociata per il copyright, di Angelo Acquaro, dalla Repubblica di mercoledì 16 marzo. In Tunisia ed Egitto, i giovani rovesciano quei regimi che l'Occidente, per interesse, aveva scelto di appoggiare. Come scrive Gad Lerner su Vanity Fair, questi giovani ci stanno insegnando una lezione che farà storia. La rivoluzione è dei giovani. L'età media degli 80 milioni di egiziani è 24 anni. Ciò spiega forse perché scarseggi lo spirito di rivolta fra i 60 milioni di italiani, la cui età media è di 44 anni, ovvero un ventennio sul groppone in più cada uno. Li guardiamo dall'alto in basso, sponda nord versus sponda sud nel medesimo piccolo mare, con la paura di chi finora aveva fatto il tifo per i loro presidenti tiranni, considerando la piazza araba alla stregua di una minaccia barbarica. Ci tranquillizzava sapere che un tale Ben Ali governasse anche per noi la Tunisia da 23 anni, così come il vecchio Mubarak sovrintendeva l'Egitto da 30 anni, mentre l'eterno Gheddafi comanda in Libia da 42 anni, al punto da far apparire un novizio Bouteflika, il presidente dell'Algeria, che gestisce il potere da soli 12 anni. Ci vergogniamo ad ammetterlo. Ma la democrazia ci sembrava una forma di governo inadatta per quei popoli di colorito olivastro e per giunta poveri e, come se non bastasse, giovani. Se i loro reis garantissero lealtà all'Occidente, vigilanza contro gli integralisti, un filtro all'esodo dei migranti verso le nostre coste, senza dimenticare i rifornimenti di gas e petrolio a prezzi decenti, perché mai dovrebbero interessarci le condizioni di vita e il rispetto dei diritti civili per quei popoli inferiori? Scusate la brutalità, ma non fingiamo di ignorarlo. Quei dittatori che fino a ieri chiamavamo presidenti, ricevuti a Roma in pompa magna da tutto il nostro establishment riunito, magari con esibizioni apposite di Gheddafi, versione export delle nostre veline, hanno goduto del nostro sostegno decisivo fino al giorno prima della loro deposizione a furor di popolo. La nostra ignoranza sulle società arabe, ricoperta con i soliti luoghi comuni su una piazza sempre e comunque reazionaria, perché dominata dai fratelli musulmani, ha subito nel gennaio 2011 una smentita colossale. Come già nel 1979 in Iran fu un moto popolare rivoluzionario a sbriciolare il regime filo occidentale, ma non era affatto scontato prevalesse in seguito l'oscurantismo degli Ayatollah, così oggi la rivoluzione nordafricana ha caratteristiche aperte, laiche e di aspirazione alla libertà che noi dovremmo ammirare, sentire familiari. Certo, la sollevazione avviene in condizioni di miserie economiche e penuria di lavoro tali da rendere disperati i suoi protagonisti. I numerosi suicidi di disoccupati, le torce umane che hanno incendiato ogni contrada della regione, nulla hanno a che fare con l'Islam. ma rivelano l'insostenibilità degli squilibri di reddito fra paesi limitrofi che contraddistingue il Mediterraneo. Pensare di contenere tali disuguaglianze col metodo della democratura, rubo la cinica espressione con cui Gianni De Michelis teorizzava il giusto mix fra democrazia e dittatura, si è rivelato fallimentare. Caduti i regimi comunisti nel 1989, perché analoga sorte non dovrebbe toccare agli oppressori di altri popoli a noi vicini? Non dipenderà anche dalla nostra amicizia prevenire le mosse degli integralisti? Avete ascoltato la lettura dell'articolo Quei dittatori che chiamavano presidenti di Gad Lerner da Vanity Fair del 9 febbraio.